Pillole di Covid, ossia notizie utili e informazioni trovate nella rete. Un ulteriore bagaglio per comprendere e superare la pandemia. Un articolo di Dario Bardellotto del 15 luglio 2022. Relazioni. Aumentano separazioni, single, coppie senza figli e chi resta a vivere in nuclei familiari solo per motivi economici. Contemporaneamente sentiamo parlare sempre più spesso di convivenza coi virus. La biologia ci può insegnare qualcosa su questi argomenti? Sì, molto. Le più recenti acquisizioni scientifiche confermano e integrano significati e contributi già forniti da altre discipline come fisica, filosofia, linguistica, psicologia, ecologia. L'individuo è innanzitutto relazione. Siccome il tema delle relazioni è per sua natura complesso, partiamo da quelle più semplici. I virus sono entità elementari che sviluppano con noi umani una relazione semplice e di totale dipendenza unilaterale. Essi non sono considerati degli esseri viventi. Hanno strutture e funzioni molto semplici. Non hanno coscienza, intelligenza e autonomia ed essendo paragonabili a dei banali codici matematici, producono informazioni numeriche affidabili e semplici da interpretare. Essendo il Covid diffuso in tutto il mondo, in varie situazioni e contesti, forniscono un'enorme quantità e varietà di dati facili da analizzare con metodi matematici e statistici per approfondire la relazione virus-umani e le conoscenze sul funzionamento del nostro sistema immunitario che funge da mediatore. Nella relazione tra specie umana e SARS-CoV-2 stiamo assistendo alla più veloce diffusione ed evoluzione di un patogeno nella storia umana. Tuttora ci sono i presupposti matematici e biologici perché lo sviluppo di nuove varianti, mai così infettive, prosegua con ancora maggiore velocità. Il problema non è la comparsa di un nuovo virus, dato che conviviamo già con miliardi di tipi diversi di tali esseri e conosciamo solo lo 0,1% di quelli presenti nell'ambiente. La biodiversità non solo è uno degli indici fondamentali della salute di un ecosistema, ma caratterizza anche il sé biologico. Il nostro corpo ospita un numero di microorganismi superiori a quello delle cellule umane. Hanno calcolato che in un uomo di 30 anni, di 70 kg, ci sono 3,0 per 1013 cellule e 3,9 per 1013 batteri, Bjorksiv, Sender e Milo, 2016. Poi ci sono virus, protozoi, funghi e lieviti che vivono in relazione col nostro sistema immunitario. L'uomo potrebbe essere definito come una comunità di esseri viventi. Olobionte. Cosa vuol dire? È un termine scientifico per definire la convivenza simbiotica di agenti biologici con DNA diverso. Nell'essere umano la convivenza tra microbi e noi è costitutiva e la nostra storia e identità genetica non può essere descritta solo partendo da geni umani. Proprio dalla convivenza con microorganismi scaturisce la costituzione di ciò che l'essere umano come superorganismo è. Da un punto di vista immunologico, il sé non è un tratto umano, ma il risultato di complesse interazioni tra le cellule umane e una molteplicità di cellule microbiotiche. Detto altrimenti, ciò che tradizionalmente è stato definito sé è in parte dipendente da ciò che è stato tradizionalmente definito come non sé. Bisognerebbe avere chiaro in testa qual è il contesto microbiologico in cui si è evoluto geneticamente l'Homo sapiens. Parliamo di epoche in cui si viveva in piccoli gruppi sparsi per foreste e savane, con rari incontri con altri gruppi. Questo è il contesto in cui si è evoluto geneticamente il nostro sistema immunitario. La nostra evoluzione culturale ci ha portato ora a vivere prevalentemente in metropoli superaffollate, con mobilità e scambi veloci e globali. Il nostro sistema immunitario cerca di adattarsi a questa nuova situazione, ma geneticamente resta costituito per affrontare meglio altri contesti naturali. I virus non sono mai stati accolti da 8 miliardi di persone pronte a fornire il substrato per selezionare con velocità spaventose nuove varianti più contagiose. Sono scenari totalmente nuovi sia per noi sia per i virus. Date le nostre scarse conoscenze, per precauzione, nelle fasi iniziali di questa pandemia, la strategia di azzeramento del Covid avrebbe avuto un senso, ma sarebbe stata possibile se immediatamente fosse stata condivisa da tutte le nazioni e tutti gli abitanti del pianeta. Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Comunità Scientifica Occidentale definiscono insostenibile la strategia zero Covid, secondo i calcoli dei ricercatori della Fudan University di Shanghai, tale strategia ha risparmiato più di 1,5 milioni di morti in pochi mesi solo in Cina e ridotto drasticamente anche i costi economici e sanitari. Persino le restrizioni alle libertà e le precauzioni sono state adottate per tempi minori con questa strategia. Tuttavia, ora che si è diffuso negli umani in ogni angolo del pianeta e in molti altri animali e circola per aria, acqua e terra, è impossibile da sostenere lo zero Covid anche in Cina, pur se sono riusciti a contenere molto bene in 3 mesi anche Omicron. Sicuramente arriveranno Omicron 5 e Centaurus con un potenziale infettivo difficile da controllare. Inoltre, oggi il clima globale che si respira va nella direzione opposta alla cooperazione e condivisione di strategie e soluzioni globali. Nella situazione odierna, il problema è come mantenere una convivenza sana con questo virus. Per gestire un equilibrio dinamico, funzionale alla nostra specie, è fondamentale diminuire la velocità di diffusione del virus e quindi ridurre l'incidenza dei nuovi contagi, che è proporzionale alla probabilità di sviluppare nuove varianti resistenti. Dobbiamo ridurre la velocità per renderla sostenibile alle nostre difese immunitarie individuali e collettive, cioè immunità di gruppo. In questi 3 anni di pandemia il virus ha sempre giocato in netto anticipo, aggirando con facilità tutte le misure adottate dall'uomo e continua a dominare lo scenario. In poco tempo si muove nello spazio e si evolve sviluppando varianti più adatte a diffondersi. Nemmeno la modernissima e velocissima tecnologia a mRNA tiene il passo. Fino al 2020 pensavamo che la produzione e distribuzione di un vaccino richiedesse minimo 2 o 3 anni, più di un anno per la campagna di vaccinazione globale, ma per le varianti Covid dovrebbe essere pronto e iniettato un nuovo vaccino in tutto il mondo ogni 2 o 3 mesi, senza poter fare nessuna sperimentazione. E così anche il nostro sistema immunitario. Il 10% di reinfezioni sintomatiche nei primi 3 mesi, sia dopo booster che infezione naturale, lo conferma. Il tempo e la velocità sono 2 elementi che caratterizzano tutte le relazioni e le convivenze. Le piante impiegano mediamente dai 10 ai 30 anni per adattarsi a nuovi microorganismi. Gli animali hanno bisogno di tempi anche più lunghi per trovare equilibri con microorganismi che non mutano. Figuriamoci con microorganismi che sviluppano nuove varianti dominanti ogni 4-6 mesi. Nelle relazioni coi virus, queste velocità dipendono totalmente dai comportamenti dell'ospite. Se stessimo fermi e isolati, questa velocità si azzererebbero nel giro di poche settimane. I comportamenti di 8 miliardi di umani in un mondo globalizzato, consumista, neoliberista, fanno sì che la velocità di generazione e diffusione di nuove varianti virali aumenti a livello esponenziale. Non possiamo, ogni volta che una nuova variante dominante genera una nuova ondata, dire che è stato un evento casuale e imprevedibile. il virus non diventa più buono o cattivo, come spesso ci raccontano, ma sfrutta i nostri comportamenti per i suoi interessi, approfittando delle tante probabilità di evoluzione che gli regaliamo semplicemente lasciando crescere l'incidenza dei contagi. È come giocare a poker dando all'avversario 100 carte invece di 5. Infatti, dal punto di vista dei numeri, stiamo perdendo tutte le mani, pur se lui è stupido e senza gambe e noi siamo intelligenti. Le mutazioni dei virus, come le mani di una partita a carte, dipendono dal caso. Ma se adottiamo una strategia vincente su un numero infinito di mani, azzeriamo l'effetto della fortuna. Noi stiamo concedendo al virus un numero quasi infinito di mutazioni casuali che poi vengono selezionate con l'unico fine di garantire la sua sopravvivenza e diffusione. Non è un caso che le nuove varianti siano sempre più contagiose e da quella di Wuhan con R0 uguale 1, R0 uguale all'indice di contagiosità intrinseco della variante, siamo passati a 7 della variante Delta, fino a 15 di Omicron, B a 5 e ora a 20 con la recentissima BA275 Centaurus. Non è un caso che si selezionino varianti più infettive resistenti a vaccini e anticorpi naturali. È più che prevedibile statisticamente, è proprio matematico. È un caso invece che la mortalità sia diminuita. Un virus può tollerare fino al 3%. In realtà anche livelli di mortalità del 10% lascerebbero un numero sufficientemente elevato di ospiti in cui diffondersi, tra l'altro in modo più aggressivo. Il problema è che con mortalità superiore al 3%, la paura farebbe cambiare i comportamenti umani, che è quello che temono veramente i virus. L'ondata di Omicron BA5 dimostra che le strategie adottate non funzionano e ci esporranno a notevoli rischi in futuro. Non possiamo lasciare libere varianti che si generano e sviluppano ogni 3-4 mesi, con fuga immunitaria sia dai vaccini che dagli anticorpi naturali. Ma questo sistema politico, economico, finanziario dimostra sempre più di non riconoscere i propri errori e i propri fallimenti e prosegue immutabile. Dovrebbero cambiare anche i criteri per scegliere i vertici delle istituzioni politiche, sanitarie e scientifiche. Abbiamo validissimi scienziati e medici competenti, esperti, appassionati e che studiano discipline complesse e in continua evoluzione. Eco, Evo, Devo, biologi, fisica quantistica e relatività, interazioni tra sistemi complessi, microbiomica, ecologia, statistica, epidemiologia, igiene e prevenzione, eccetera. Eppure, ai vertici delle istituzioni politiche, sanitarie e scientifiche, mettono persone incapaci di interpretare la miriade di dati e informazioni globali generate da un banalissimo virus. La maggior parte dei luminari e direttori di vari istituti che parla in televisione e sui social dice cose spesso illogiche e senza mai una visione sistemica del problema. Dall'inizio della pandemia continuano a ripetere periodicamente, sempre, gli stessi concetti, a cicli come le ondate dei contagi. Anche le strategie messe in atto riflettono la mancanza di una comprensione sistemica e non hanno un senso e obiettivi chiari. Sembra un continuo tirar là per qualche mese senza nessuna lungimiranza e senza riforme strutturali. Le strategie si basano su misure emergenziali, repressive fatte di restrizioni, obblighi, multe e divieti, solo quando la situazione negli ospedali supera la soglia critica e collassano i sistemi sanitari. Per il resto ci affidiamo a vaccini la cui efficacia dura pochi mesi, farmaci e antivirali. Abbiamo totalmente rinunciato all'educazione e alla prevenzione primaria, che invece sono gli unici interventi strutturali efficaci per ridurre drasticamente la velocità di diffusione del virus e quindi la velocità di generazione di nuove varianti e quindi la velocità di sviluppo di resistenze a vaccini e anticorpi naturali e in definitiva per modificare drasticamente in meglio la nostra